Il mio cor, la sua fierezza. Sappi che in ogni istante libera la nostra alma e cal desio del forte può la vita mancar, ma non la morte.